Bene, questa era la sigla di questa trasmissione, sigla iniziale, la trasmissione Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine su 90 MHz, oltre al fatto che ricordiamo sempre che se volete ascoltare questa trasmissione potete farlo e comunque anche le scorse puntate andando su zardinsmagneticsradio.noblogs.org, oltre a tenere a mente che c'è pure insomma la versione in diretta internet, cioè scusate, no, in diretta in streaming. Comunque non perdiamoci in queste cose, che tanto ve lo ricordiamo anche dopo. E andiamo all'ascolto di questa band svedese, loro sono i Wolfpack, poi diventati Wolf Brigade, e c'è sempre questa cosa che magari più volte l'ho già detto, quando nei mesi e mesi passati abbiamo messo i Wolfpack, che il band che ha deciso di cambiare il nome in Wolf Brigade, perché Wolfpack era un gruppo neonazista del giro motociclistico in Svezia, e quindi loro nel dubbio hanno preferito cambiare nome onde evitare riferimenti a quel gruppo neonazista. Comunque andiamo all'ascolto di questo album, di questo album, di alcuni brani, loro sono i Wolfpack. Yeah. E teniamo un po' sfumato questi Wolfpack, anche perché insomma i brani sono corti e veloci, comunque merita veramente l'ascolto questa band. Questo, i brani che stiamo ascoltando, sì, ho detto da un loro album, comunque non ho specificato che l'album è All Day Hell ed è datato 1999. Benvenuto, buonasera, buonasera a tutti voi, insomma, benvenuti anche da parte mia a questa puntata di Zardins Magnetics del giovedì 1 dicembre 2022, puntata invernale, diciamo, dal punto di vista del meteo, con una scaletta diciamo, la struttura della scaletta la confermiamo, ma magari qualcosa andrà, insomma, modificandosi in corso d'opera. Quindi, che la riprendo un po', era un intervento sulla, così, sull'origine del regime di 41 bis, poi c'era un altro intervento sulla mia voce e ciò che nuoce, su come, diciamo, non lasciarsi azzittire, e poi c'era una, così, chiamata per il per lo sciopero di domani 2 dicembre, sciopero indetto dai sindacati così conflittuali, collegandosi un po' al discorso anche repressivo e di gestione emergenzialista della pandemia. E, detto questo, che era il sommario, potremmo con la calma far partire un po' di musica sottofondo, e io, per come introduzione così di questa serie di argomenti di stasera, nella quale comunque si ascolterà come sempre anche tanta buona musica autoprodotta e così, quella che ci piace a noi, e che siamo, insomma, quella musica dei Black Bloc, che avevamo già detto altre volte, e non solo, però musica di tutti, e andremo, insomma, a prenderla un po' alla larga, partendo così dall'attualità. 40 milioni di euro nei prossimi 3 anni in finanziaria sono stati assegnati per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza e rimpatrio, per il rimpatrio. È una notizia, insomma, che abbiamo visto oggi. Sì, è stato inserito nella legge finanziaria questo provvedimento, poi appunto deve passare la discussione parlamentare. Comunque, diceva chi l'ha pubblicata, diceva, per questo sistema fallimentare, io vorrei sottolineare, noi vorremmo sottolineare, insomma, che questo sistema è tutt'altro che fallimentare, come si era probabilmente già detto da questi microfoni, o probabilmente anche da qualche compagno nostro, non mi ricordo più. Comunque è un sistema che funziona, fa danni, fa paura, fa terrore nella popolazione immigrata, popolazione così, cosiddetti clandestini, sono sotto ricatto perpetuo, e poi a scalare dai clandestini senza lavoro, a quelli che hanno lavoro e non vogliono perderlo, devono stare zitti, accettano tutto e via avanti, insomma. E poi quelli che hanno la residenza, sono magari anche alla cittadinanza, ma devono a loro volta stare zitti, non protestare, adeguarsi e accettare, rimbambirsi, eccetera eccetera. Quindi da questo messaggio chiaro del governo in carica di 40 milioni di euro per moltiplicare la rete dei CPR, però anche facciamo un appunto che già il ministro dell'interno Minniti nel 2017 aveva già prospettato un CPR per ogni regione, quindi 20 CPR, e per il momento, insomma, la cosa non è andata, non sono riusciti a metterla in pratica, però a quanto pare, insomma, stavolta lo faranno. E questo ci permette anche di, secondo me, di fare una, ribadire anche questa questione della deportazione, addirittura, che verrà attuata, come già detto da questi microfoni, la scorsa primavera Boris Johnson era insomma stata data la notizia che Boris Johnson aveva firmato un accordo per la deportazione dei richiedenti asilo sul territorio della Gran Bretagna. Un accordo con il Ruanda in cambio di 120 milioni di sterline, e loro li mettevano sulle navi e li portavano giù nell'Africa centrale per risolvere definitivamente il problema, no? Definitivamente anche rievoca soluzioni finali di altre epoche. Circa un mese fa, questa decisione di queste civiltà nordiche che vengono sempre ammirate, che sono molto avanzate, che hanno insomma appunto civiltà grazie alla riforma si sono liberati di tutte le nostre insomma credenze, così noi siamo ancora quelli di San Gennaro, questi qui sono invece razionali, eccetera. E la Danimarca, che è un altro regno come la Gran Bretagna, si era accodata questa primavera con un'altra bella idea, cioè di non solo trasferire i richiedenti asilo, ma anche deportare gli immigrati, cioè gli stranieri in prigione, da quelli che sono nelle prigioni danesi sovraffollate, deportare tutti gli stranieri in Kosovo, e da lì poi l'onere del Kosovo a dargli un calcio in culo per espellerli fuori dal territorio dell'Unione Europea. Circa un mese fa sono andati alle elezioni nel Regno di Danimarca, e se è andata insomma sembra, non credo che ci sia ancora, non mi risulta che c'è ancora il governo. Comunque la candidata del partito che ha ottenuto la maggioranza relativa, che è una socialdemocratica, si chiama pare si chiama Fredriksen, qualcosa del genere, credevo di avermelo annotato, non l'ho fatto. Comunque quindi confermato questo discorso dei richiedenti asilo del Ruanda, e poi la seconda decisione è deportare gli immigrati che delinquono in Kosovo in carceri in affitto, e poi la terza decisione insomma che aveva messo nel suo programma elettorale è revocare i permessi di soggiorno a quegli immigrati provenienti dai paesi dove a quanto sembra non c'è più la guerra, non c'è più una situazione di guerra in atto, e quindi rimandarli al mittente, che loro i danesi non li vogliono. E quanto pare dal 1 gennaio 2023 capo del governo della Danimarca conta di mettere in pratica questa decisione, e quindi gli immigrati condannati a detenzione verranno deportati in Kosovo, e hanno stato concluso un accordo di 15 milioni di euro all'anno con il Kosovo per 300 celle in una località vicino a Pristina. E quindi appunto, come dicevo, poi l'autorità kosovara sarà cura sua l'espulsione a fine pena di questi immigrati, di questi non europei, dal territorio dell'Unione Europea. E questo qua insomma è la situazione, il quadro, il panorama dell'oggi. E possiamo mettere un brano. Ancora distanti, più tirati poco dietro, pietre d'acciaio. Ready to run, the lights on. Eccoci di nuovo in diretta da Zardins Magnetics, sono le 20:36 in questo momento e diamo una breaking news, una notizia appena arrivata, come dicono del giornale, l'esito dell'udienza della Corte Costituzionale sull'obbligo vaccinale. Allora, vi leggo questo comunicato dell'ufficio comunicazione stampa della Corte di oggi, appunto è uscito adesso. Obbligo vaccinale a tutela della salute. La Corte ha ritenuto inammissibile per ragioni processuali la questione relativa alla impossibilità per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale di svolgere l'attività lavorativa quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli né sproporzionate le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, e ciò sia per il personale sanitario sia per il personale scolastico. E quanto rende noto l'ufficio comunicazione stampa della Corte Costituzionale in attesa del deposito delle sentenze. Ecco, abbiamo letto insieme a voi questo ignobile comunicato del massimo, insomma, organo del potere giudiziario, e sì, c'erano stati i sentori di questa sentenza, che sarebbe stata sfavorevole alle istanze, insomma, di chi ha lottato in questi anni contro questa politica emergenzialista, insomma, questa gestione delirante del problema, insomma, della questione del Covid-19. E niente, cioè, la commentiamo in diretta con voi. Cioè, ovviamente questo non vuol dire che è tutto perduto, anzi, insomma, la lotta va avanti e, insomma, sti 100 euro qua non sono, sì, non vanno, insomma, va fatta opposizione sia sul piano, insomma, giudiziario a questa vergogna, sia continuare, insomma, a manifestare il dissenso assoluto su questa scelta discriminatoria, su questo obbligo discriminatorio e autoritario, e senza nessun fondamento di nessun genere, qualunque tipo, né tecnico né scientifico, tantomeno. A tal proposito, domani sarà una prima occasione per manifestare questo dissenso. È stato convocato, come dicevo prima, dai sindacati cosiddetti conflittuali, perché su questa questione non hanno mai voluto pronunciarsi, che sono, anche questa è una questione che a noi non va giù. Il coordinamento, in particolare, insomma, a livello nostro locale, riprendiamo questo, il coordinamento No Green Pass di Trieste ha pubblicamente, insomma, preso parola su questa questione, sta sollecitando a partecipare, insomma, al corteo, alla manifestazione di domani nella città, insomma, di Trieste. E, come, insomma, recita il comunicato del coordinamento No Green Pass di Trieste, domani, appunto, il 2 dicembre, ve lo leggo, sciopero contro la guerra e il caro vita, è il titolo del messaggio sul loro canale Telegram. Il 2 dicembre i sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale che, tra le altre rivendicazioni, pone come centrale l'opposizione alla guerra e al carovita. Siamo consapevoli dell'assenza, tra le rivendicazioni, dell'opposizione alla gestione autoritaria e discriminatoria del Covid-19 che ha colpito e colpisce innanzitutto i lavoratori e le lavoratrici. Ciò nonostante, in coerenza col nostro percorso di opposizione a ogni emergenzialismo, da quello sanitario, tra virgolette, a quello bellico, esortiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici a aderire allo sciopero. Di seguito, insomma, vengono pubblicati i volantini delle realtà triestine, e il volantino dell'Unione Sindacale Italiana. Il comunicato si conclude con non un soldo, non un soldato per la guerra della NATO, no caro vita, no caro gas, no green pass, vogliamo pace e libertà. E non credo sia il caso di leggere adesso i volantini di comunicazione dei sindacati, appunto, dove appunto per noi invece è rilevante che la questione dell'obbligo vaccinale e dell'obbligo di dotarsi di Green Pass per lavorare non è stato, ancora una volta, non è stato affrontato, non è stato messo tra le rivendicazioni, e invece è una questione che noi non dimentichiamo e che va riportata, insomma, in questa lotta. Intanto stiamo ascoltando questa band francese loro sono gli Human Compost, questi brani che abbiamo ascoltato anche prima, ma ne ascolteremo ancora uno, sono estratti dal loro album d'esordio che si chiama Rain in Sheet, band comunque, come ho detto, francese, zona sud, sud-est della Francia. Eccoci di nuovo in diretta, sono le 8.49 di giovedì 1 dicembre 2022, Zardins Magnetics, la trasmissione che va in onda realizzata da compagni e compagni dell'assemblea permanente contro carcere e repressione di Friuli e Trieste. Allora, oggi 1 dicembre era prevista anche un'altra questione, era prevista una udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che è l'unico tribunale che è predisposto, diciamo, che da cui insomma che dà l'esito insomma delle richieste insomma di rivedibilità dei provvedimenti di 41 bis, permettetemi questo modo insomma di esprimermi. Oggi appunto c'era l'udienza per il 41 bis ad Alfredo Cospito, che è in digiuno una situazione preoccupante, diciamo, oltre che, insomma, ovviamente sta portando avanti questa lotta importante per tutto il movimento anarchico e non solo, ma insomma è in condizioni davvero, insomma, che preoccupano per questa lotta che ha intrapreso di digiuno da più di, se non sbaglio, sono 43 o 44 giorni dal 20 ottobre, detenuto nella, appunto, nella prigione di Bancali, in provincia di Sassari, in Sardegna. Leggiamo questo, anche questo articolo, insomma, vi leggo queste quattro righe da una radio di movimento, Radio Onda d'Urto. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma si è riservato stamattina di decidere in merito al reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito, l'anarchico torinese, che poi è abruzzese, detto tra di noi, attualmente detenuto in regime 41 bis nel carcere di Sassari, quindi riserva. L'avvocato Flavio Rossi Albertini ha fatto istanza contro il regime di carcere duro che è stato disposto nei prossimi 4 anni. Cospito, in sciopero della fame dall'ottobre scorso, è il primo caso di un anarchico al 41 bis, la tortura di Stato. Per Cospito e tutti gli arrestati, presidi solidali oggi davanti ai tribunali di sorveglianza di Roma, di Genova, di Bologna, Torino, Sassari e Milano. A Milano, da una finestra, è stato fatto calare finché è durato, è stato fatto calare un grande striscione con la scritta Alfredo Libero no 41 bis, mentre a Firenze ci sarà un presidio sabato 3 dicembre. Aperta parentesi, è previsto uno spezzone contro, insomma, in solidarietà a Alfredo e agli altri compagni, Anna, Ivan, anche Juan, anche se l'ha concluso, insomma, non importa, Toby Sean e, insomma, tutti i compagni prigionieri che hanno dato la solidarietà a Alfredo. E sì, se mi... No, scusate, che la musica intendevo. E scusate, dicevo, è previsto uno spezzone al corteo che ci sarà sabato 3 dicembre a Roma, insomma, grande, che è stato indetto già da un po', insomma, per il caro vita e per, insomma, e contro la guerra. E, chiusa parentesi, per una panoramica su tutte le decine e decine di azioni e di solidarietà, di manifestazioni, di, insomma, da irruzione a uno spettacolo teatrale a Roma, a interruzione di una liturgia a Bologna, eccetera, insomma, azioni anche, insomma, di attacco a varie che sono state condotte in questa settimana dall'altro giovedì. Vi invito ad andare nei soliti canali, insomma, uno per tutti, diciamo, è Il Rovescio, il blog degli anarchici e delle anarchiche del Trentini. In particolare io volevo solo leggere questo, che è una rivendicazione, secondo me, viene da lontano, però tocca da vicino, diciamo, noi che parliamo qui dal nord-est cosiddetto, dal Friuli, è dentro il nord-est italiano. Quindi è rivendicazione d'attacco incendiario contro un furgone della Cone, in solidarietà con gli anarchici Alfredo, Juan, Anna, Ivan e il movimento carcerario dell'Alabama, Milwaukee, Oregon, Stati Uniti, 21 novembre. Allora, la notte del 21 novembre un camion di servizio della Cone è stato dato alle fiamme mentre era parcheggiato nei pressi della sede aziendale di Milwaukee, Oregon. Il fuoco è stato acceso per il prigioniero Alfredo Cospito in solidarietà col suo sciopero della fame e fa parte della chiamata internazionale all'azione. Cospito, eccetera, eccetera, cose che abbiamo già detto. La multinazionale Kone, produttrice di ascensori, scale mobili e sistemi per porte, ha contratti con carceri e strutture militari in tutto il mondo, tra cui la base aerea NATO di Aviano, nel nord-est dell'Italia, attraverso la sua controllata Kone S.p.A. Attraverso la pratica della solidarietà rivoluzionaria ci proponiamo di rompere l'isolamento della cella di una prigione, attaccando l'infrastruttura aziendale che consente il sistema di incarcerazione di massa. È nostra intenzione espandere la lotta contro le prigioni andando oltre le mura del carcere per far sì che nessun prigioniero che lotta per la libertà lo faccia in isolamento. Solidarietà Juan, Ivan, Anna, che si sono uniti in solidarietà con Alfredo nel digiuno. Solidarietà col movimento carcerario dell'Alabama, che ha recentemente portato a termine uno sciopero del lavoro di 3 settimane, andando a coinvolgere e colpire tutte le 13 prigioni del sistema del Dipartimento di Correzione dell'Alabama. E questo era appunto il testo della rivendicazione di questi compagni statunitensi, appunto, che colpiscono laggiù per danneggiare anche le basi NATO qui friulane. Questa è la conclusione, insomma, di questo spazio di aggiornamenti su questa lotta, insomma, di Alfredo. E ancora un po' di musica e poi ci sentiamo fra qualche minuto, insomma, con ancora un intervento su un'altra questione. Questa che stiamo ascoltando è una band tedesca dalla zona di Stoccarda, un 7 pollici uscito nel 2002. Loro sono il Murder Disco X, ovvero del Murder Disco Experience, e questo disco, questo 7 pollici, si chiamava Supercrust. Eccoci di nuovo in diretta per questo ultimo, diciamo, blocco di intervento di questa sera. Tra l'altro, oltre a salutare chi ci ascolta qui da Friuli, colgo l'occasione anche mentre insomma stiamo aspettando un attimo il discorso della regia, ma per salutare anche tutti quelli che ci ascoltano da, appunto, in streaming, come è già stato detto prima, e non solo, quindi da tutta Italia, anche fuori dall'Italia, e anche chi ci sta ascoltando nella replica, insomma, in questo momento su Radiazione, web radio di Padova. Quindi una breve storia dei regimi di isolamento, perché riprendiamo questo discorso, perché è stata fatta, insomma, anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di mettere in piedi qualche, più di un'iniziativa, insomma. L'ultima era questa mostra sul 41 bis, sulla repressione a livello, insomma, di chi lotta, insomma, sui prigionieri cosiddetti politici, come, insomma, chi ci ha seguito in queste settimane già sa. E quindi è importante, insomma, riprendere un po' il filo di questo discorso anche con le cose dette prima. L'emergenzialismo che caratterizza, ad esempio, che ha caratterizzato il contrasto della pandemia, disastrosa, diciamo, l'emergenzialismo che ha caratterizzato questa gestione disastrosa, insomma, sembra sempre di più, diciamo, una caratteristica essenziale di questa. Di quella che è, appunto, un'altra emergenza che va ad aggiungersi, insomma, è anche l'esito del. Sì, non che adesso un giudice, quello che dice un giudice, anche se la Corte Costituzionale, condiziona tutto, insomma, tutto un movimento che c'è già ed è, insomma, per niente affievolito, sì, per niente azzittito. Tuttavia, insomma, è un segnale questo, che a livelli, insomma, alti, questa questo discorso non deve passare, questo discorso della che non sta in piedi, insomma, l'emergenza, l'obbligo vaccinale, e va, insomma, a accodarsi, insomma, alle precedenti emergenze che abbiamo visto in questo paese, insomma, in ordine, diciamo, inverso, di cronologico inverso. L'ultimo, insomma, era il terrorismo islamico, il penultimo era la mafia, tra l'altro tutti e due sono ancora tenuti, insomma, in piedi dalle autorità. E precedenza c'era la contestazione anti-autoritaria, che era partita ben da lontano, insomma, nel 68-69. E cosa ci dice questo discorso dell'emergenzialismo? Che c'è uno schieramento, quindi o da una parte o dall'altra, sul solito discorso dello stato di eccezione e del diritto del nemico, no? Che avevamo fatto già altre volte. Sui regimi di isolamento del 41 bis, secondo me è interessante, e riprendo ragionamenti fatti, ascoltati, insomma, in tutte queste manifestazioni che si stanno susseguendo in questi giorni, settimane, attorno alla lotta di Alfredo, al digiuno di Alfredo. Una cosa curiosa che, appunto, il 41 bis è stato preceduto dall'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, che era, appunto, quella famosa postilla che conteneva la possibilità di sospendere praticamente in maniera indefinita, senza vincoli temporali, il trattamento secondo, appunto, quello che definiva l'ordinamento penitenziario della riforma del 75, ovvero il passaggio, insomma, dal carcere fascista, che era rimasto tale quale anche dopo le proteste, dopo le contestazioni studentesche, operaie del 68-69, e quindi sì, diceva questo articolo 90, per motivi di ordine e sicurezza noi possiamo sempre sospendere l'ordinamento penitenziario e sottoporre di nuovo trattamento punitivo e accanirci con tutti quelli che non si piegano all'obbedienza che noi imponiamo. Questo discorso qua era l'esito di questa riforma, cioè la riforma conteneva questa postilla. Interessante il discorso, pochi anni prima si parte, appunto, chi c'è nel 75, appunto, nel 75 questa riforma è fatta in determinato contesto politico che c'era in quel momento lì, che adesso non stiamo a approfondire. Comunque segue a questa riforma dell'ordinamento penitenziario nel 77 il cosiddetto avvio del circuito dei camosci. Allora vengono, appunto, anche qui deportati oltre 1000 prigionieri selezionati personalmente dal capo dell'antiterrorismo, prelevati da dove erano detenuti e portati anche in elicottero all'alba in 5 di questi carceri speciali, che non erano nient'altro che le solite galere solite, tra l'altro, apro una parentesi, ad esempio, cioè erano Cuneo Fossombrone, Trani, Favignana, Lasinara, poi Novara, Termini Imerese, Badu Carros e Pianosa. Appunto, Pianosa è nient'altro che un'isola d'arcipelago toscano, praticamente dall'Ottocento che c'erano le galere. Favignana, che è sulla punta, insomma, del Trapanese, e anche questo praticamente sulla punta della Sicilia, anche questa era una galera ancora. Abbiamo visto, insomma, una mostra qui sulla questione dell'intervento coloniale dell'Italia in Libia. Venivano deportati gli oppositori all'invasione italiana della Libia. Venivano deportati già, insomma, oltre 110 anni fa in questo carcere qua di Favignana. Quindi, questi carceri speciali, oltre alla durezza del trattamento, c'era questo discorso della dispersione geografica. Siamo nel 77, però, appunto, 77 c'è questo discorso del generale Dalla Chiesa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, che così a sua discrezione mette insieme 1.000 prigionieri e li manda confinati in queste galere, a regimi, insomma, di isolamento e di particolare durezza, sospendendo di fatto la Costituzione repubblicana in maniera indefinita, sì, per un lasso di tempo indefinito. Poco prima, da dove viene fuori questo discorso? Viene fuori dal fatto che a guidare, cioè lo scoppio di questa gestione repressiva del problema carceri in Italia, perché in Italia, appunto, nei primi 70 c'erano una forte conflittualità nelle carceri, come anche fuori, però particolarmente, insomma, cioè, oltre che cosiddetti, sì, agli studenti, ai militanti, e ai militanti c'era anche il discorso degli extralegali, dei banditi, rapinatori, così, e anche questi si ribellavano, si univano alle lotte. E appunto, il generale Dalla Chiesa era colui che decise, insomma, l'intervento militare per gestire la strage, quella che poi fu la strage nel carcere di Alessandria il 9 maggio 1974. E se noi facciamo, insomma, andiamo a vedere questo discorso qua, cosa consiste questa strage? Ci fu una ribellione di 3 detenuti e presero in ostaggio alcune guardie e un assistente sociale, irruppero, appunto, i carabinieri nel carcere di Alessandria, massacrarono tutti, sia a freddo, sia i rivoltosi, sia gli ostaggi. Si va a vedere, questa questione qua non è mai stata fatta nessuna inchiesta. Su un articolo, appunto, insomma, ha fatto notare l'avvocato Pelazza, su un articolo della stampa di Torino nel 2014, quindi nel quarantennale della strage. Il titolo era "Parla Don Maurilio Guasco a 40 anni dalla rivolta", e, insomma, intervistano questo che era un docente, cioè è un docente, cioè adesso sarà in pensione, voglio dire, ma era un insegnante di storia della religione, che fu incaricato di mediare in quel momento lì, non fu aperta nessuna inchiesta. Lui fece, insomma, una denuncia circostanziata. Il discorso era che cioè l'inchiesta ci fu, ma fu spostata subito a Genova per non avere il processo in Piemonte, dove c'erano già altri altre, in piedi altri processi. E a Genova c'era il procuratore, c'era Cocco, che era già, insomma, era conosciuto perché era particolarmente zelante, diciamo, nel punire i compagni. E Cocco fece stracciare la testimonianza di questo guasco perché, secondo lui, virgolette, era inficiata da animosità verso le forze dell'ordine. E quando passano gli anni, insomma, questo guasco insiste, porta un altro esposto al procuratore Alessandria qualche anno dopo, che c'è già stata la nomina, insomma la carriera dalla chiesa è già partita, e questo procuratore di Alessandria gli risponde: lei è coraggioso ma anche molto ingenuo, insomma, perché il clima, insomma, l'aria era quella, quindi non c'era nessun spazio per per contestare le legittimità come agivano le forze dell'ordine in quel momento. Che non che ci fosse, non che oggi sia migliorata la cosa, anzi, però, insomma, il discorso è un po' che c'è anche un'importanza di portare anche semplicemente di diffondere queste cose, no? Di tanto saperle. Poi la magistratura è sempre territorio ostile, questo qua non è che cambierà, non può cambiare, insomma è importante anche battere il ferro non solo quando è caldo ma anche soprattutto quando è freddo, no? Ribadire questa situazione, insomma, insopportabile del insomma, di non aspettarsi che la magistratura possa risolvere mai, anzi, le questioni, anche perché, appunto, questo discorso della tortura, insomma, del 41 bis è la caratteristica trasversale di tutto, no? L'apparato giudiziario. Cioè come un principio di vasi comunicanti, perché laddove c'è questo discorso della differenziazione dell'eccezione, a catena, insomma, di questi piani separati si ripropongono ovunque nella società. E quindi, anche per concludere adesso, il discorso del lottare contro la repressione e il carcere, come abbiamo già detto tante volte anche da Zardins Magnetics, è tutto il contrario di uno specializzarsi, no? Di una lotta specifica. Ovviamente da fuori sembra sempre un discorso tanto specifico, con terminologia anche così tecnica, uno che non ha mai sentito può dire: che c'entra questo con la mia concreta, no, vita, esistenza, eccetera, ma proprio il discorso di creare un nesso tra quello che si fa fuori e quello che c'è dentro, perché dentro comunque si lotta, comunque si protesta, comunque si sospendono, insomma, si cerca di in tutti i modi di impedire l'atteggiamento di punitivo, sì, perché un discorso è io ti separo dalla società, insomma, ti limito la libertà, però tutto il resto, insomma, quello che è il l'accanirsi, appunto, fino ad arrivare alla tortura, tutto quello lì non è un togliere la libertà, quello lì è un'altra cosa, ed è giusto, appunto, opporsi a questo stato di cose, resistere, e quindi passarsi il testimone tra, anche tra chi ha lottato in passato e lotta oggi, e creare un nesso tra, appunto, tra le lotte che ci sono fuori e le lotte che sono dentro. E noi, così adesso per concludere, mancano pochi minuti, e oltre appunto a dire questo, diamo anche cioè, costantemente pensiamo, insomma, alla situazione di chi è dentro, anche chi, insomma, chi come Alfredo è in digiuno, insomma, da più di un mese, e chi, siamo con lui, e lui, sì, lui non lo fa solo per se stesso, anzi questa aver scelto, insomma, di digiunare in questa maniera, così mettere a repentaglio la vita, insomma, mettere alla prova la vita che, diciamo, degna di essere vissuta o no, e così, e direi che si può mandare, diciamo, in conclusione lo spezzone del, appunto, dell'udienza di 10 anni fa al Tribunale di Genova. Can we let our history die? No, we cannot. But the devil loves sarcastic. Yes, the devil loves sarcastic. Bene, e in sottofondo, cioè lasciamo comunque in sottofondo questa band slovena, gli In Force, che è comunque un acronimo di Is Not For Sale, ed è, come ho già detto, band slovena, ed ha questo loro album del 1995. Mentre prima, durante gli interventi, abbiamo anche ascoltato una band della zona di Imperia, i CGB, dal loro album Schedge. Anzi, devo essere sincero, alcuni brani più volte li ho passati, comunque erano appunto in sottofondo durante l'intervento. Bene, come di consueto, insomma, alle 21:30 quasi siamo giunti al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, e che ogni giovedì è in diretta radio dalle ore 20 alle ore 21:30. E vi ricordo i nostri contatti, se volete scriverci, la nostra mail di, insomma, posta elettronica è liberetutti@autistica.org. ripeto, liberetutti@autistica.org. mentre se volete scriverci nella, insomma, solita forma cartacea, potete intestare ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Mentre se volete risentire questo programma, ma anche quello delle volte successive, cioè delle volte scorse, potete andare in rete cercare zardinsmagnetixradio.noblogs.org. Bene, siamo giunti al termine e ci salutiamo, e vi lascio con questa band slovena, gli Is Not For Sale. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Anzi, scusate, ribadisco, ciao a tutti, al prossimo giovedì, anche se è giornata festiva. Ciao.